Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ieri sera abbiamo parlato di zanzara tigre, di tarlo asiatico, di cimice dei letti e chi più ne ha più ne metta. Insomma, stiamo parlando di tutta una serie di ospiti indesiderati, possono essere insetti ma possono essere anche mammiferi, uccelli, che arrivano in qualche modo in città trasportate dagli uomini, nuove specie che prendono piede, e nel momento in cui prendono piede possono rompere degli equilibri e creare problemi anche abbastanza seri. Abbiamo visto che possono arrivare in tanti modi, compiendo viaggi intorno al mondo prima di giungere a noi. Tenere sotto controllo questi fenomeni è di estrema importanza anche dal punto di vista sanitario, e oggi ci domandiamo che cosa possiamo fare noi come cittadini e che cosa deve cambiare dal punto di vista culturale per migliorare questa nostra capacità. Ne parliamo come ieri con Sergio Urizio, che è presidente di ANID, dell'Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, un'associazione che raccoglie circa 300 imprese, rappresenta più o meno 4.000 lavoratori. Buonasera Urizio. Buonasera dottor Melis. Bentornato. Dunque, cominciamo dall'aspetto culturale. Che cosa possiamo imparare, sapere noi cittadini o qualche cittadino magari in posizioni particolari per aiutare in questa lotta? Dunque dottore, intanto direi che dovremmo partire da un presupposto, e cioè il grado di esigenze igieniche che abbiamo cresce con l'aumento della qualità della vita, e di conseguenza anche la soglia di accettazione di determinate situazioni si evolve e tende al miglioramento, nelle città ancora di più. A livello proprio di esempio, ci sono ormai paesi dove lei, tra le varie indicazioni, certificazioni, riconoscimenti che trova sulle porte d'ingresso dei vari ristoranti, trova anche l'etichetta che dice che quel locale è stato disinfestato dalla ditta tal dei tali. Da noi questo non succede, lei non lo vedrà, e spesso noi siamo chiamati a fare questo tipo di lavoro di notte, di nascosto, eccetera, perché viene associata la presenza di un disinfestatore all'esistenza di un problema. Va di bene, il disinfestatore non dovrebbe intervenire quando c'è il problema, dovrebbe intervenire prima. Certo, prevenire. A scopo preventivo. Ecco, ieri parlavamo delle cimici dei letti. Se il personale che tutti i giorni fa le camere di pulizia fosse reso edotto, fosse formato, aggiornato su quelli che sono i segnali, le indicazioni che possono preannunciare l'arrivo di un'infestazione, molti di questi problemi verrebbero risolti prima. Ecco, la cimice dei letti è quell'insetto che punge, tra l'altro sono punture molto vistose, nel senso che producono perdite di sangue, in realtà non sono pericolose per la salute, però sono abbastanza impressionanti. E per esempio si è parlato a lungo, per quanto riguarda i treni, di pidocchi, di pulci, un po' di tutto, in realtà erano cimici dei letti. Sì. Questo per dire che è importante che alcune persone, per esempio il personale dell'albergo, ma anche quello di pulizia dei treni, realisticamente, certo, deve saper riconoscere certi segni. Questo è un aspetto sul quale forse si può lavorare un pochettino. Senta, sì, facciamo qualche esempio di disinfestazione. Che cosa succede in una camera d'albergo dove si è scoperta la terribile cimice dei letti, o magari gli scarafaggi, che forse sono pure peggio e che non mancano? Guardi, un buon terzo del fatturato delle nostre imprese è relativo alla, devo usare un termine tecnico nostro, alla deblatizzazione, cioè alla lotta, all'eliminazione. Ecco, alla blatta o scarafaggio. La nostra tecnica ormai si muove più sul monitoraggio che non sull'intervento, diciamo, disinfestativo. Cioè è importante percepire che sta arrivando una infestazione nel momento in cui è ancora controllabile. Quindi prevenire. Sì, sì, sì, è molto chiaro. Ecco, ma ci faccia un esempio, la cimice dei letti come si elimina? Ci sono anche qui diverse tecniche, e tre in modo particolare. La tecnica più diffusa, più antica se vogliamo, è l'utilizzo di disinfestanti, prodotti chimici, quindi con una atomizzazione, nebulizzazione di prodotti chimici almeno due volte, perché le uova sopravvivono e bisogna ammazzare insomma anche la generazione neonata per completare la disinfestazione. Poi ci sono altri metodi meno noti. Meno noti, ma si sono in grande diffusione negli Stati Uniti, dove il fenomeno è diventato veramente, loro la definiscono pandemia, vengono usati già in maniera molto diffusa, sono il freddo e il caldo. Cioè, tra l'altro sono più efficaci questi sistemi nei confronti delle uova, perché il prodotto chimico con le uova non fa nulla, il caldo e il freddo invece con le uova agisce. Si tratta sostanzialmente attraverso un sistema, viene definita nebbia fredda, quindi di raffreddamento dell'atmosfera. Col ghiaccio secco, è la nebbia, il famoso ghiaccio secco, sì. Ci sono delle attrezzature particolari che portano questa nebbia in maniera tale che penetri in tutti i più piccoli pertugi, perché le prese della corrente no? E così via, dietro ai quadri eccetera. La stessa cosa col calore, portando la temperatura stabilmente per circa un giorno e mezzo al di sopra dei 58-59 gradi. A questo punto il fenomeno viene eradicato. Dunque Maurizio, uno si trova di fronte a un problema di infestazione, cerca qualcuno per risolvergli questo problema, c'è il rischio che finisca anche in mani sbagliate, no? Certamente, dottore, perché ci sono un'enormità di interventi fatti da occasionalmente e superficialmente. Il disinfestatore oggi non è più né il Chaparat né il pifferaio di Amelie. È un professionista che deve studiare e che da questo punto di vista deve anche essere in grado di documentare quello che ha imparato e quello che è la sua esperienza e la sua formazione. Quindi no, insomma, a disinfestatori improvvisati. Grazie Maurizio. Grazie a lei. Anche per stasera è tutto, appuntamento a lunedì.